Benvenuta tra noi. Li hanno chiamati Art Lab, laboratori d'arte, un nome dietro il quale si cela la meraviglia dello scambio, del dare e ricevere amore, un progetto nato in seno alla LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Si tratta di corsi pensati per curare l'anima di chi sta affrontando la malattia o di chi l'ha superata, tecnicamente è guarito, ma ha ancora molto da dire a proposito. Un progetto che accoglie anche i familiari dei malati oncologici e che prevede corsi d'arte e meditazione. Una volta al mese si va poi in giro per luoghi belli. Cercare la bellezza è un po' la sensazione che ti arriva quando entri in queste stanze. Per giungere nelle stanze di Art Lab si supera la grande hall dell'ospedale. Lì il via vai di persone quasi ti travolge e racconta che la malattia è parte della vita, che non andrebbe trattata come qualcosa di estraneo, qualcosa di cui avere paura, ma di cui prendersi cura in tutti i suoi aspetti. È questo che fanno in questa stanza la dottoressa Murro e le altre professioniste che incontro. Io mi chiamo Luciana Murro e faccio la psicologa, è una specialità in psicoterapia in tecniche corporee. Lavoro qua all'Istituto dei Tumori da tantissimi anni, lavoro appunto nella psicologia dell'istituto e collaboro con il laboratorio artistico della Lega Tumori. E qual è il suo ruolo qui? Lei cosa fa operativamente in questo laboratorio? Io conduco due laboratori. Uno che è di pratiche meditative e l'altro che lavora sui viaggi. La domanda grossa che c'è dietro questi due laboratori è: che cos'è l'esperienza della malattia oncologica per i pazienti? Ci sono due grandi temi. Da una parte l'esperienza della malattia oncologica è un'esperienza di stress fondamentalmente, no? Uno stress lungo, intenso e prolungato nel tempo. E tutti gli esseri umani, quando fanno i conti con questa esperienza, vanno incontro a diversi problemi. La malattia oncologica ricorda agli esseri umani che stiamo facendo un viaggio. E quindi mettere insieme questi due elementi, in che modo noi possiamo aiutare i pazienti da una parte a ridurre il livello di stress e dall'altra entrare in modo un po' più profondo quasi sul senso del vivere. Quindi c'è da una parte tutto un lavoro sulla necessità di aiutare i pazienti a reggere i livelli di stress, perché questo poi si ripercuote su tutto il sistema neurobiologico, perché lo stress è un'alterazione del sistema neurovegetativo e noi sappiamo che tutte le persone, quando vivono un livello di stress molto lungo, vanno incontro anche a problemi a carico del sistema immunitario. Quindi per noi è molto importante questo, aiutare i pazienti ad abbassare i loro livelli di stress e dall'altra parte entrare quasi in una dimensione, come dire, di vita più piena. Certe volte, anche soltanto nell'arco delle 2 ore, accadono dei cambiamenti. La meditazione, dove ti insegna a focalizzare l'attenzione sul respiro, sul movimento del torace, sembrerebbe che agisce anche sulle aree cerebrali legate a questo e che agisce sulle aree del cervello più sviluppate negli esseri umani, che è la corteccia prefrontale. Quindi ha delle potenzialità incredibili. Il riscontro è immediato. Le persone che hanno iniziato questo percorso raccontano così. Sono Alida Russo. Tu partecipi a questi laboratori? Sì. Ho iniziato però dopo un anno dalla malattia, dalla diagnosi. Praticamente, vabbè, il primo anno è stato così, io ero un po' in pausa. E poi niente, poi è successo che ho recidivato subito. Il fidanzato mi ha lasciato. Io sono caduta un po' così in depressione, mi sono presa. E un volontario della Lega mi ha preso per le orecchie, mi ha portato giù in questo laboratorio. E niente, mi hanno accolto benissimo, tipo che io avevo espresso un desiderio, cioè disegnavano qua. E ho detto, ah, ma che figata, ma anche coi piedi, perché mi vergognavo, io non disegno da che ero bambina. Ma anche coi piedi si può disegnare? E insomma, mi hanno fatto la sorpresa quando sono arrivata qui la prima volta, mi hanno fatto trovare questo rullo enorme di carta e abbiamo disegnato coi piedi tutti quanti, è sembrata una danza, abbiamo danzato coi colori, è stato bellissimo. Non ho più abbandonato questo laboratorio, l'ho frequentato sempre, poi la malattia è andata avanti, è stata molto lunga, ho fatto in mezzo un trapianto, un altro trapianto di midollo e io ero sempre qua. E quando ero ricoverata scendevo giù col trespolino, il camicetto, la mascherina, i guanti, venivo qui e facevo le mie cose qua. È un posto in cui ti senti comunque a tuo agio, non ti senti diversa dagli altri. E poi, vabbè, a me mi ha insegnato a vivere nonostante la malattia, appunto. Da che prima ero in pausa, poi c'è stato uno switch, ho detto, ok, e non posso aspettare, perché se poi non guarisco e se poi non va bene, che faccio? Inizio a vivere con tutti i problemi che ci sono, e qui mi hanno aiutato ad affrontare questa cosa. Io sono Brunella Cambareri e sono qua, utilizzo il laboratorio dal 2010, quando mi è stato diagnosticato il cancro, e ricordo che mentre ero ricoverata, durante l'intervento, è venuta una volontaria della Lilt con una brochure che appunto presentavano i laboratori, e mi aveva colpito il laboratorio di yoga. Mi ha sempre incuriosito questa disciplina e quindi mi sono subito interessata, e quindi dal 2010 ho frequentato il laboratorio di yoga, ho fatto un anno anche teatro, e sono state esperienze bellissime. Proprio lo yoga mi ha insegnato tantissimo, yoga e meditazione sono quelle a cui sono più affezionata. È stata una grande rivelazione della mia vita, infatti dico sempre che questa esperienza negativa del tumore ha avuto i suoi aspetti positivi, perché mi sono affiancata a queste discipline che magari avrei potuto farlo, ma chissà. Sì, questi laboratori mi hanno dato tanto, e ma anche nella stessa sessione, per dire, entri in uno certo stato emotivo, esci che stai meglio. Cioè l'effetto di benessere anche immediato. Entri con la consapevolezza di essere accettato, di poter empatizzare, di sapere, di avere totale comprensione, perché c'è chi come te, magari per patologie un pochino differenti, ma è passato dallo stesso tipo di emotività. E quindi stai sicuro, entrando nella porta del laboratorio, di avere assoluta comprensione, di star bene, di poterti esprimere con totale libertà, senza giudizio, negativo perlomeno, o insensato come fuori c'è spesso, incomprensione. Il fatto è che ho portato molto fuori questo, quindi ho applicato la respirazione soprattutto, sia imparata in yoga e in meditazione, che veramente interagiscono con le mie discipline, e l'ho portata fuori anche durante gli esami. Quindi infatti io poi ho avuto un altro episodio di cancro, quindi nel 2017, adesso sono in metastasi, e quindi durante gli esami, che richiedono rilassamento, devi stare immobile, io ho usato tantissime volte la respirazione, e ho cercato di ispirare con la mia esperienza, di portare la mia testimonianza anche le persone che fuori non hanno patologie, ma che veramente per me hanno un altro tipo di malattia. Io a volte penso di stare meglio io, non una malattia mentale, ma mentale nel senso di lamentarsi di qualcosa che non sussiste. Con la mia testimonianza cerco sempre di ispirare ad altri, di poter minimizzare veramente le cose su cui si lamentano, con totale positività, che a volte, anche ultimamente che ho la metastasi, quando qualcuno mi chiede perché ho le stampelle, cos'hai? E lo dico ridendo o col sorriso, dicono stai scherzando, vero? Quindi il fatto di dire, cioè, di cosa stiamo parlando? Sì, grato alla vita. Quindi a volte mi sento meglio io, di star meglio io, che non la gente che non ha niente. E quindi io, che sono molto più limitata adesso pure con le stampelle, perché ricordo quando ho avuto il primo episodio al seno, ho detto amputatemi anche il seno, ma non toccatemi le gambe. E invece adesso è arrivata le gambe. Al fianco di Alida, Brunella e tutti gli altri ci sono i volontari, persone a volte con una lunga esperienza, una sorta di memoria storica anche della malattia, di come veniva trattata solo 20 anni fa, dei tabù che circondavano il tema. Sono Marta Cantoni e faccio la volontaria, sono dal 1980, sono 39 anni, per cui diciamo che ho visto la nascita del volontariato, tutto il percorso che c'è stato della Lilt, i cambiamenti, tutte le cose che sono state fatte ed è stato veramente un insegnamento di vita importantissimo per me, perché mi ha fatto apprezzare di più tutte le cose belle della vita. In 39 anni ne ha viste di cose cambiare, no? Anche nel modo di parlare anche della malattia, cioè un laboratorio del genere 20 anni fa. All'inizio non si poteva nemmeno nominare, dire la parola tumore o cancro, perché le persone che erano qua tante volte non sapevano di essere in un istituto. Per cui c'era stato proibito di usare queste due parole, no? E poi c'era persone che dormivano in macchina, per cui riuscire a convincerli di andare in Lega a chiedere un aiuto. Ma erano, insomma, per fortuna le cose sono molto molto molto cambiate. Per cui... Ma non è cambiato il fatto che le persone da sud devono venire al nord per essere curate? Purtroppo dal sud devono sempre arrivare, però ringraziando il Signore adesso sono tutti molto più informati, quasi tutti hanno i parenti, cioè è cambiato moltissimo, e soprattutto le tecniche e così. Il più grande tabù che si portava ancora dietro il tumore era quello di non poter essere belli, e invece avere cura della propria bellezza è un modo per dire a se stessi e al mondo: esisto, ci sono, sono bellissimo. Ci spiega così Simonetta, che qui in Art Lab cura il laboratorio di coccole estetiche. Sono Simonetta Marchetti, sono un'insegnante, una docente di laboratorio estetica, perché sono un estetista. E proprio parlando qualche anno fa con una mia alunna che stava preparando una tesina, ho scoperto la possibilità di poter trattare le persone che sono in terapia. Quindi mi sono informata, ho frequentato un corso dove ho ricevuto poi la certificazione proprio per poter trattare le persone in terapia con tutta tranquillità e sicurezza, perché chiaramente seguiamo un protocollo OTI, e fino ad allora non si poteva, perché l'estetista in realtà non poteva trattare le persone in terapia proprio perché non sapeva cosa poteva fare, e invece da allora si può. E quindi dopo aver frequentato questo corso ho deciso che dovevo per forza, insomma, fare qualcosa, no? E quindi ho chiesto la possibilità di partecipare, di entrare in Art Lab. Mi hanno dato questa possibilità, quindi abbiamo iniziato a creare dei laboratori di coccole estetiche. Coccole perché poi noi in realtà non facciamo dei trattamenti completi, però insomma trattiamo il viso. Mettiamo lo smalto, facciamo massaggi, chiaramente seguendo anche un po' la patologia, no? La malattia. E diamo anche delle indicazioni, dei consigli su quali sostanze in realtà contenute nel cosmetico non dovrebbero essere usate, soprattutto dalle persone che sono in terapia. Vasi ricuciti con colate d'oro usano fare questo in Giappone per sistemare le crepe, ed è un po' quello che accade in questo posto dove nulla è affidato al caso. Io sono Laura Gangeri e all'interno di questo progetto mi occupo, diciamo, della direzione scientifica di Art Lab, e quindi direi sostanzialmente di verificare insieme poi ai docenti e alle persone che se ne occupano anche dal punto di vista organizzativo, verificare il taglio di questo progetto e quindi il mantenimento sostanzialmente della professionalità all'interno di questa esperienza. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. I consigli che vorreste sentirvi dare dagli amici, quelli veri. Sicuramente consiglierei un dottorato in Germania, soprattutto nei settori tecnici. Le dritte che non avete mai osato chiedere. Oggi un curriculum per l'estero deve essere soprattutto focalizzato sulla massima concisione e focalizzazione sulle proprie esperienze professionali. Le offerte di lavoro che non potrete rifiutare. Eurisvezia ci ha contattato per una richiesta di infermieri per l'ospedale universitario Karolinska di Stoccolma. E se cercate casa? Standard abitativi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. La cosa bella, spesso fai amicizia con i tuoi coinquilini, perché non sarai mai solo, ecco. A Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, vi guidiamo nel vostro futuro all'estero. Che ci andate per studiare, lavorare o fare impresa, noi saremo al vostro fianco. Sono Sergio Nava, vi aspetto il sabato alle 13.30 su Radio 24 e anche in podcast su radio24.it. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Diario di un giorno, cronache dal sociale. Siamo alla LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, e qui che ha preso forma il progetto Art Lab. A spiegarmi in cosa consista ci pensa Nadia Fontana, che è la coordinatrice del progetto. Heart Lab è un progetto del servizio assistenza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è uno dei tanti servizi di assistenza, il più particolare forse, un po' un nostro così, una perla, noi riteniamo che sia un progetto speciale. Nadia, mi spieghi innanzitutto quando è nato questo progetto e quante persone e a chi si rivolge? È nato nel 2008 con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Di fatto nel 2008 è stato sviluppato un progetto embrionale che già esisteva all'Istituto dei Tumori, ma la LILT non se ne occupava. Nel 2008 la LILT se ne fa carico da tutti i punti di vista, quindi prima di tutto economici perché va finanziato e poi dal punto di vista organizzativo. C'è stato un momento di svolta nel 2011 in cui è nata una collaborazione molto stretta con la psicologia dell'Istituto dei Tumori e quindi ha subito una bella evoluzione, una crescita ulteriore con una direzione scientifica appunto della psicologia dell'Istituto. È un progetto dedicato a tutti i pazienti oncologici. Tutti intendo non solo dell'Istituto dei Tumori, quindi tutti, ce ne sono alcuni che arrivano da altri ospedali, non solo di Milano ma anche da fuori Milano, ed è dedicato poi anche ad ex pazienti, quindi persone che di fatto hanno già superato la fase più critica della malattia e sono in follow up. E poi è dedicato anche a familiari di persone al momento malate, e perché anche i familiari purtroppo vivono il dramma in maniera molto pesante, spesso loro per primi insieme al malato hanno bisogno di momenti di svago e di supporto. Come si struttura questo progetto? Sì, ogni anno viene creato un calendario di attività e di corsi che si svolgono da ottobre a giugno. E quindi ogni giorno della settimana, sia mattina sia pomeriggio, ci sono attività che poi se volete possiamo elencare nel dettaglio, però per fare alcuni esempi c'è yoga, movimento posturale, computer, pittura, scultura, pratiche meditative, che è un corso molto amato, e poi c'è una cosa molto particolare ideata dalla dottoressa Murro, che più tardi conosceremo, ed è una psicoterapeuta dell'istituto, si chiama i viaggi di Heart Lab. Una volta al mese viene organizzata una passeggiata a Milano in cui i pazienti vengono quindi invogliati innanzitutto a uscire di casa, a camminare, a stare all'aperto con qualunque clima, questo perché la data è fissa, non viene spostata, quindi se piove si esce comunque, e durante la passeggiata si visitano luoghi di interesse culturale, artistico, spesso ci sono visite guidate grazie a guide turistiche, quindi si vanno a stimolare anche la curiosità e la voglia di stare appunto fuori casa. Simonetta Sboria ci spiega la genesi di questo meraviglioso progetto. Sin dagli anni 80 noi ci siamo occupati della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Quindi con le risorse che noi abbiamo a disposizione, che sono senz'altro risorse economiche ma anche risorse umane, empatiche, emotive e via dicendo, noi facciamo tutto quello che può contribuire a migliorare la qualità di vita del malato e della sua famiglia. E in questo noi ci crediamo da sempre. Quindi, come tutti i servizi, anche il laboratorio artistico, che ha vari obiettivi, ne ha veramente tanti, però anche quello di cercare di migliorare la qualità di vita di chi sta attraversando senza dubbio forse il periodo più difficile e più buio della propria esistenza. Negli anni si è molto abbattuto anche il tabù, no, della malattia, un tempo si teneva un po' nascosto anche tutto il dolore, quello che si provava anche durante la cura, invece adesso grazie anche a voi probabilmente appunto il tema della condivisione, dello stare insieme sta diventando importante anche per guarire, no? Sicuramente, sì, questo sicuramente c'è una percezione diversa della malattia e c'è chi arriva in Heart Lab con un forte stato spesso depressivo, di tristezza, di dolore, e la cosa straordinaria che già dopo pochissimi incontri, pochissime settimane di partecipazione hanno un altro sguardo sulle cose, sul loro futuro e sulla possibilità di farcela. La cosa incredibile è che può essere un'occasione di crescita personale la malattia. Questo lo raccontano quasi tutti i partecipanti di Heart Lab. Il progetto dedicato ai luoghi della bellezza poi ha una ricaduta su tutti, anche su chi accompagna il gruppo, ci racconta così Brunella. Anche questo è bellissimo, il fatto di respirare la bellezza, di vedere e di emozionarsi perché vedi qualcosa di bello, ma non solo qualcosa di bello, anche il fatto di farlo insieme. Diceva che l'attività fisica fa bene, quindi il fatto di girare per Milano fa bene anche perché ci si muove, ma il fatto di muoverci tutte insieme, quindi il fatto che ci siano le volontarie, ci siano le altre pazienti, ci sia magari qualche accompagnatore. L'ultima avevo fatto venire mio figlio, che è giovane, e pensava proprio di stufarsi. Invece è riuscito lui stesso a beneficiare, pur essendo quasi forzato a venire perché lì sono andata in carrozzina, si è sentito anche lui coinvolto emotivamente. Questo è fantastico, vedere poi mio figlio che difficilmente si fa coinvolgere, e quindi riuscire a toccare anche altri esseri umani che possano beneficiare di questo, questa meraviglia che c'è all'interno di un contesto di malattia, di limiti, che se parli fuori istituto di tumori, ma veramente sei malata, tutto così. Invece non mi faccio mai dire questo, per quello che adesso non credono quando ne parlo, io non voglio proprio questo tipo di... Sì. Sono tante le voci che ci accompagnano in questa storia e sono tutte in sintonia. Io mi chiamo Pia Spinelli, sono una volontaria della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori da 32 anni. La mia attività si svolge in ospedale, è stata una grande scuola di vita. Praticamente metà della mia vita l'ho trascorsa venendo due mattine alla settimana in istituto, e sono veramente grata di aver vissuto e di vivere questa esperienza, perché io lo dico sempre, i pazienti oncologici sono stati per me dei maestri, perché l'uomo, l'essere umano, quando soffre è vero, è semplicemente, non agisce, ma è. E quindi l'ascoltare, perché il nostro ruolo è l'ascoltare, lo stare accanto a queste persone, è stato veramente grandioso, mi ha cambiato la vita, e questa esperienza l'ho potuta trasmettere ai miei figli, a mio marito e alla famiglia intorno, perché alla fine diventa un abito interno. E da qualche anno a questa parte, da quando sono cominciati i laboratori, il laboratorio artistico, io seguo la dottoressa Morro, i pazienti nelle pratiche meditative più o meno una volta al mese, e questi viaggi che si conducono una volta al mese su Milano e intorno. E anche questo è cioè, una grande esperienza, perché cioè, questi viaggi sono come i viaggi della vita, no? E camminando, per esempio, abbiamo davanti una guida, poi ci sono questi pazienti gioiosi che anche qui testimoniano questa capacità di vivere il momento gioioso che stanno sperimentando in quel momento, e noi volontari dietro che chiudiamo, no? E loro ci conducono. Cioè, questo per me è un'esperienza veramente forte che mi commuove, ma però mi rende anche, non so, con questo cuore grato, perché ho potuto e posso sperimentare, fino a che sarà, questa esperienza. Storie quelle che si susseguono in queste stanze, che hanno un valore per tutti noi. Sono Laura Sangalli. Sono una giovane mamma di due bimbi, sono stata operata quest'estate di un tumore al seno, sono stata operata appunto a giugno e poi da luglio sto facendo chemioterapia. E da ora, il mese scorso, ho scoperto la realtà della LILT e delle attività che loro organizzano presso l'Istituto di Tumori. Ho cominciato a frequentarle e ho trovato in queste un validissimo supporto per tantissimi aspetti. Innanzitutto per gli aspetti propri delle attività proposte, per esempio ho partecipato agli incontri meditativi tenuti dalla dottoressa Murru, e che sono fondamentali, io penso, per aiutare ad entrare in un'ottica che è quella giusta per affrontare la malattia, e non solo, per anche quella giusta per affrontare la vita. Io penso che oggigiorno, purtroppo, per la vita frenetica che facciamo, il lavoro, forse alle volte non nei nostri valori, ma quantomeno nei fatti, perdiamo un po' di vista le varie priorità che la vita deve avere, e invece bisogna imparare a rallentare e a dare il giusto peso a tutte le cose, e a dare anche a essere capaci a prendersi del tempo per sé. E questo, per esempio, negli incontri meditativi viene molto stimolato e supportato. E insomma, queste cose, queste attività mi sono molto piaciute, appunto, innanzitutto per quello che offrono, e poi perché di fatto diventano uno spazio di condivisione che è stupendo, perché è uno spazio di condivisione che è diverso da quello che uno trova nella sala delle infusioni, per esempio della chemioterapia. È uno spazio bello in cui si fanno belle attività, in cui ci si sente a proprio agio, e questo dà anche la possibilità di vivere l'ospedale, perché tante di queste attività sono tenute all'ospedale in una maniera positiva, e questo appunto fa vivere l'ospedale in una maniera diversa, e questo secondo me è un altro aspetto cruciale. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, La puntata termina qui, con l'esortazione del grande Severino Cesari, che nel libro dal titolo Con molta cura esortava tutti noi ad arrivare contenti ai giorni difficili, forse quello che si sta compiendo in queste stanze all'interno della Lilt. Potete scrivermi a diario@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.